18. Gli assassini. La forza è seguita da un indebolimento. Questa non è la strada del Tao. Tutto ciò che si oppone al Tao va incontro a morte prematura. Lao Tse. Era quasi l'alba. La bruma stava sospesa sul canale, addensandosi in nebbia, nascondendo gli occhi dipinti sulle prue delle barche dei fiori. Le risate e le canzoni di chi cercava il piacere si erano da lungo tempo smorzate. Quando le signore conosciute come fiori, tra virgolette, erano scomparse coi loro clienti sotto coperta, il profumo dell'oppio ristagnava. In un sampan, ormeggiato presso le pietre sgretolanti del ponte del Cammello Pigro, Talento Nobile faceva la guardia, mentre Spirito Risoluto dormiva rannicchiato contro lo scafo della barca. Si accese un'altra sigaretta. Lasciamo riposare ancora un po' il ragazzo, pensò. Lasciamo che sogni anche per me. Inalò profondamente, assaporando il fumo aspro. Non chiudeva occhio da diverse notti e le sue mani tremavano per la stanchezza. Fortunatamente il piano che aveva scelto non richiedeva precisione. Un rumore improvviso lo fece voltare, ma non era niente. Un topo o nella cabina il russare della donna che li ospitava. Sorrise cupo. La barca della convertita, anche se ben diversa dalla nave da guerra che aveva sognato un tempo di comandare, si era rivelata un perfetto nascondiglio, anzi ci si era affezionato. La fragranza del pesce affumicato, le lanterne oscillanti, il ritmo del fiume, la cabina dove la moglie del contadino intratteneva i clienti con le sue trapunte vistose, le tende di bambù dipinto e un assurdo violino occidentale. Facendo brillare i suoi denti d'oro e le fossette nel salutarlo, la giovane era quasi svenuta quando lui le aveva offerto 25 filze di cash per un uso esclusivo di 2 settimane. Dopo la prima settimana, però, si era spazientita. Quel signore era indifferente al suo fascino, mentre il contadino ricorreva troppo spesso ai suoi servizi. Negli ultimi 2 giorni aveva evitato entrambi, preferendo giocare a carte con la sua vecchia serva, le cui chiacchiere potevano distruggere la sua reputazione. Talento Nobile sospettava che la donna li avrebbe cacciati via se non fosse stato per quel che contava di acquistare col denaro che le avevano dato, un maiale per il marito e scarpe nuove per i bambini. Dormi bene, pensò. Fra qualche ora se ne sarebbero andati e non avrebbero più compromesso il suo prestigio professionale. Sospirò, desiderando di poter dormire e di non pensare più. Gli sembrò di essere stato maledetto fin dall'inizio, di essere maledetto ora, forse, fino alla fine. Solo una maledizione poteva spiegare perché le ribellioni erano fallite. Ce n'erano state tante che si era dimenticato il numero. 12, 14. Se i Tung Meng Hui facevano affidamento sul tempo, si sbagliavano sull'arma. Se armavano bene gli uomini, quei 2 o 3 di importanza fondamentale non riuscivano a riconoscersi. Se poi si riconoscevano, alcuni non capivano il dialetto degli altri. Ah, come se un russo cercasse di parlare con un aborigeno. Dopo l'ultimo tentativo, quando 120 uomini disposti a morire avevano fatto irruzione nello Yamen di Canton, 72 martiri erano stati sepolti sulla collina dei fiori gialli. Forse aveva ragione, Talento coraggioso. La gente non era ancora pronta per il cambiamento. Eppure, se i tempi non erano maturi per una sollevazione, quando lo sarebbero stati? Gettò la sigaretta in acqua e sfregò un fiammifero per accendersene un'altra. Aveva dedicato metà della sua vita alla rivoluzione, a un giuramento che esigeva fedeltà assoluta. Altri potevano mettere in dubbio la sua abnegazione, lui no, e così avrebbe eseguito l'ordine che gli era stato dato. L'ordine. Ora, dopo tutte quelle settimane di progetti, non restava che quello, anche se, quando quei mangiatori d'aglio di Canton avevano per la prima volta accennato ai loro sospetti infondati, lui era stato travolto da una furia tale che era stato assalito dalla voglia di uccidere e di ridere allo stesso tempo, ma si era imposto di non reagire, per non permettere che la stupidità o la calunnia lo allontanassero dal campo di battaglia. La loro società non doveva essere divisa da fazioni. In nome della causa che li univa, avrebbero continuato nella sua missione anche coi cantonesi. In 15 anni si era costretto più di una volta a riversare la sua collera sull'insignificante, orribile dialetto del Kwantung, per esempio. Sorrise cupo. Come aveva potuto sopportarlo? Quel suono che rompe i timpani e fa perdere la calma. La gente diceva che quando parlano d'amore i cantonesi hanno la stessa dolcezza di una folla di mendicanti di Suzhou, che si accapiglino per un sacchetto d'oro, ed era vero. Però, forse, era proprio quel suono stridulo e sgraziato del loro dialetto che li rendeva così inquieti. Ed era proprio la loro irrequietezza che li rendeva così propensi a viaggiare, a cambiare, a essere veri rivoluzionari. Mentre le persone che coltivano le antiche arti non cambiano, pensò, come talento coraggioso. Ma il fratello maggiore aveva ragione su un punto: nonostante tutti i loro sforzi, i rivoluzionari non erano più vicini a rovesciare i Manciù e a cacciare gli stranieri di quanto lo fossero stati l'anno in cui i nani marrone avevano affondato le loro navi. In realtà la Cina marciava a ritroso. Perché allora essi, lui, persistevano? Talvolta se lo domandava, ma mai per troppo tempo. La rivoluzione era diventata uno stile di vita, l'unico che conoscesse. Non poteva tornare indietro. Improvvisamente, spirito risoluto si mosse, portandosi le ginocchia fino al mento e sorridendo nel sonno. Che strana coppia di assassini erano. Lui, quarantenne, aveva il doppio degli anni di spirito risoluto. Il giovane era di due teste più alto e assai più magro di lui. Lui aveva avuto tutti i vantaggi della nascita e l'altro era il figlio analfabeta di quel contadino lì che aveva appoggiato i vani sforzi compiuti tanto tempo addietro da talento coraggioso per modernizzare la campagna. Lui era un soldato che ambiva all'ordine, spirito risoluto era un cavaliere errante. A 12 anni aveva lasciato il mu di terra ai suoi fratelli ed era andato a lavorare sulle chiatte da carico del canale, unendosi a una delle bimazushi che fiorivano fra i lavoratori, assicurandosi aiuto reciproco. Attraverso alcuni suoi membri era stato presentato a un altro gruppo più attivo. Quella, semplicemente, era la storia che gli aveva raccontato la sera in cui si erano incontrati nel labirinto di società segrete dove amici malassortiti si impegnavano a essere fratelli di sangue. Soltanto dopo essersi assunti questo incarico, come uomini di Suzhou, avevano scoperto i loro veri nomi e avevano un comune destino da dividere. Abbandonò le sue riflessioni. A est il cielo schiariva. Era ora di svegliare il suo compagno. Spirito risoluto scese a terra per primo. Nessuno lo notò. Non era che un contadino diretto al mercato. Due ceste uguali di frutta che oscillavano dolcemente dalla stanga appoggiata sulle spalle. Sorrise fra sé. Quella mattina aveva già commesso un irrevocabile atto di tradimento tagliandosi via la coda. Benché nessuno lo sapesse perché la treccia era ancora tenuta su da un fazzoletto di seta. Non voleva che lo sapesse nemmeno Talento Nobile. Quel signore era già fin troppo preoccupato. Il percorso dal ponte al mercato dello Yamen era breve e marciò abbastanza rapidamente attraverso la folla. La sua statura, le ceste pesanti e le sue grida «Ehi ho! Ehi ho!» gli aprivano la strada. Attraversata la via del cavallo, seguì le alte mura del convento verso il cancello, fermandosi per dare un'occhiata agli avvisi affissi. Immaginò che uno annunciasse la visita del Manciù, ma lui non sapeva leggere. Sputò. Mentre si avvicinava al cancello, gli occhi sporgenti degli dei che decoravano l'arcata sembrarono scrutarlo e, nonostante il caldo, un brivido gli corse lungo la schiena. E se lo spettro del Manciù fosse tornato a tormentarlo? Naturalmente, quello dipendeva dal destino, così come era stato il destino a mandarlo lì per compiere la sua volontà. Sputò di nuovo, questa volta con minore energia. Meglio non pensare troppo. Per un attimo si fermò per sistemarsi il giogo sulle spalle, poi attraversò il cancello, ignorando le alte e potenti sentinelle vestite di nero, ciascuna con una lancia di acciaio lucente. Non erano che uomini, e come tali potevano essere sconfitti. Ehi tu, figlio di una tartaruga, dove pensi di andare? Il custode del cancello lo fermò. Lui si voltò e annuì rispettosamente. Onorevole signore, ho una madre anziana da mantenere. Se voi mi lascerete cortesemente entrare per vendere la mia frutta ai postulanti, ne sarete ricompensato in cielo. E sulla terra? Anche sulla terra, signore, e ficcò alcune monete nella tasca dell'uomo. Una volta entrato nel cortile esterno, scrutò attentamente il luogo alla ricerca del posto giusto. Il cortile era pieno di postulanti che erano arrivati presto e sarebbero rimasti fino a tardi. Chi accoccolato, chi camminando avanti e indietro, chi chiacchierando, chi litigando, gemendo e piangendo finché non fosse chiamato. Tirò su le ceste e si diresse verso una nicchia nel muro di rimpetto, dove non lo avrebbe notato nessuno e dove sperava di poter aspettare indisturbato. Talento nobile. Secondo il piano, il venditore ambulante doveva vendere un certo melone a un signore che sarebbe arrivato poco dopo il mangiù. Un signore in una lunga veste beige con baffi, occhiali da sole e un panama giapponese. Spirito risoluto sorrise fra sé. Aveva riso più di una volta prima che Talento Nobile fosse riuscito a mettersi correttamente i baffi e il cappello. Le persone come i Chang, che conoscevano tante parole più di gente come lui, non apprezzavano molto che qualcuno manifestasse loro la propria disapprovazione. Con un leggerissimo guizzo del labbro, Talento Nobile aveva lasciato capire quanto detestasse indossare quel cappello giapponese, ma essendo un gentiluomo di Shuchao non osava rischiare di essere riconosciuto e soltanto un signore poteva accedere facilmente all'edificio dove Po Xiao doveva pranzare quel giorno. Il suo ultimo pranzo, se tutto andava bene. Con precauzione, spirito risoluto poggiò per terra il suo carico, poiché il melone più piccolo nel suo cesto anteriore conteneva una lattina piena di polvere da sparo e una fiala minuscola di nitroglicerina. Prima che anche lui potesse sedersi per terra, gli si avvicinò uno dei servi dello Yamen. «È da settimane che non gusto una buona prugna», disse toccando il frutto nel cesto vicino. Spirito risoluto si chinò e rapidamente ne scelse una, dandola all'uomo con un gesto cerimonioso. «Vi prego, signore, accettate questa». «Solo se tu insisti!» «Insisto, insisto!» disse il contadino inchinandosi. L'uomo si ficcò la prugna in tasca e fissò lo sguardo su un'arancia. «Signore, assaggiate una delle mie arance!» Il servo ne scelse una. «Naturalmente, se è buona, tornerò più tardi a comprarne altre. Sarà un piacere per me, signore!» Quello se n'era appena andato quando ne arrivò un altro. «Vedo che dai via dei campioni!» «Oh, soltanto a voi, soltanto a voi!» Spirito risoluto si domandò come se la sarebbe cavata se avesse dovuto vendere o dar via tutte le merci prima dell'ora cruciale. Nemmeno lui aveva previsto l'avidità dei servi, che avevano ben poco da fare se non darsi delle arie. Restare con un solo melone invenduto avrebbe suscitato dei sospetti. Rifiutare di separarsene sarebbe stato disastroso. Quando il sole si alzò, scoraggiò le vendite fingendosi addormentato, il braccio intorno alla cesta del melone. Gran parte dei clienti potenziali si rivolse ad altri venditori più aggressivi. Sfortunatamente, però, i farabutti in livrea non esitavano a svegliarlo con un calcio a loro capriccio e se vendeva poco, faceva però molti doni. Man mano che le sue scorte diminuivano, malediva quel demone disgraziato che lo aveva indotto a portare frutta di prima scelta anziché ammaccata. Passò un'ora, poi un'altra. Dove era il Manciù? Non c'erano stati saluti militari. Gli 8 suonatori presso il cancello non avevano fatto uscire una nota dai loro strumenti in tutta la mattina. La polvere da sparo era ancora nella lattina ai suoi piedi. Presto il sole sarebbe stato direttamente sopra la sua testa e lo Yamen avrebbe chiuso per l'ora del pasto. Il Manciù doveva aver cambiato i suoi piani. Ah, forse aveva passato 5 minuti con un girasole, si era infiacchito. Spirito risoluto si alzò a sedere e sputò di nuovo, questa volta disgustato. Che cosa si aspettava? Quel tipo era un manciù, no? Improvvisamente si mise allerta, pur facendo attenzione a non darlo a vedere. Il Talento Nobile era arrivato, stava parlando con la guardia, ma guardava nella sua direzione e quando i loro occhi si incontrarono, disse ancora qualche parola, poi si inchinò alla guardia e se ne andò. Non c'erano dubbi, qualcosa era andato storto, non c'era più nulla da aspettare. Spirito risoluto si alzò e raccolse le sue cose, ma Mentre si dirigeva verso il cancello, una delle sentinelle lasciò il suo posto e gli si piazzò davanti. Quando cercò di girarle intorno, la guardia sporse un piede così che lui inciampò e per poco non cadde. Non andartene così in fretta, stupido! Sono qui per comprare! Forse per morire, pensò Spirito Risoluto mentre di nuovo poggiava cautamente le ceste per terra, molto cautamente. Si asciugò le palme delle mani sui pantaloni. Quel tizio fortunato dai denti d'oro aveva rischiato di non conoscere mai più la felicità. La sentinella cominciò a frugare in mezzo alla frutta. Rapido, Spirito Risoluto gli offrì una prugna, sperando così di scoraggiare ogni suo eventuale interesse per i meloni, ma il soldato era un tipo meticoloso. Senza dire una parola, continuava ad accarezzare le arance, distribuendo equamente le sue attenzioni fra ciascun frutto. Chiaramente non si sarebbe ritenuto soddisfatto finché non avesse palpato tutta la frutta rimasta nella cesta. Spirito Risoluto per poco non scoppiò a ridere. Fin dall'inizio lui, il contadino, aveva preparato un suo piano speciale e ora questa era la sua occasione, anche se si trattava di fare lo scemo. Tenendosi la pancia, si piegò in due e gemette: «Onorato signore!» Grugnì più forte e indietreggiò cautamente verso il cancello. «Vi prego, scusatemi! Troppe prugne! Affari urgenti! Grandi affari!» E fra le urla di scherno dei presenti si girò e corse via dalla guardia, schizzando attraverso il cancello e inciampando in un mendicante che giaceva nella polvere. Si era quasi messo in salvo nel mercato affollato quando migliaia di petardi esplosero dietro di lui. Si girò di scatto. Nel cortile dello Yamen, fumo e ondate di polvere. La gente scappava, urlando. Alcuni si contorcevano per terra. Uno o due giacevano immobili. Mentre lui stava lì a fissare la scena, le sentinelle si passavano il messaggio: «Il venditore di frutta! Cercate il venditore di frutta!» Spirito Risoluto si voltò di nuovo e corse in direzione del labirinto di strade sull'altro lato della piazza, saltando gli ostacoli sul suo cammino, guizzando via dalle mani che si allungavano verso di lui. Ce l'aveva quasi fatta, quando inciampò in un secchio di anguille e cadde a capofitto per terra. La folla lo accerchiò, qualcuno si abbassò per tirarlo su, gli altri indietreggiarono e vide che l'uomo era Talento Nobile. Si tirò faticosamente in piedi. «L'ho preso!» urlò Talento Nobile facendo cenno agli spettatori di andarsene. La folla, inchinandosi rispettosamente al signore, gli fece ala. I due fuggitivi schizzarono via. Avevano quasi raggiunto il vicolo quando dal nulla un ragazzino piombò alle spalle di Spirito Risoluto e gli si attaccò alla coda, che si staccò e lui cadde per terra. «Non ha la coda!» urlò, agitando la treccia nera alle guardie che in gran fretta si facevano strada fra la folla. «Quello alto non ha la coda! L'altro è un signore, ma quello alto non ha la coda!» Spirito Risoluto era davanti, mentre correvano all'impazzata per strette strade laterali e bui vicoli dove le porte e le imposte si chiudevano frettolosamente ai gridi d'allarme. Quando raggiunsero il canale della Via del Cavallo, rallentarono quasi senza fiato. Il contadino si diresse immediatamente verso l'acqua, inspirò profondamente e piegò le ginocchia. Il signore esitava. Un ratto morto galleggiava fra i rifiuti. Spirito Risoluto lo afferrò per un braccio. «Inspira a fondo!» gridò e buttò dentro Talento Nobile. Notarono sott'acqua ed emersero sotto le rovine di un ponte antico fuori uso e ormai in rovina. Spirito Risoluto si arrampicò sulla parete sgretolata, sorreggendo l'altro che vomitava e tossiva convulsamente. Sopra la loro testa passavano soldati che urlavano. Talento Nobile si coprì la bocca per non lasciar sfuggire alcun suono. Anche dopo che i soldati se ne furono andati, i due uomini rimasero immobili, come se soltanto uno sbatter di palpebre potesse richiamarli indietro. Non osavano nemmeno guardarsi e scrutavano in direzioni opposte per captare il minimo movimento. Ma non succedeva nulla. Evidentemente in questo tratto del canale non c'erano né barche né lavandaie. Dopo un po', sulla strada il traffico ritornò a essere normale. Tutti i passanti parlavano soltanto del gigantesco venditore ambulante del signore col cappello giapponese. Quando scese il buio, si sentì soltanto in lontananza un fabbro ferraio maledire un mulo che rifiutava di farsi ferrare e Spirito Risoluto domandò: «Che cosa è successo? Posiao è morto!» Che cosa? Tallentò Nobile annuì. L'ho letto su un manifesto. Così, ecco la spiegazione. Pipistrello cieco, spirito risoluto, batté la testa contro il ponte per la collera. E ora potremo rimetterci la pelle per questa mia stupida testa. Ah, oh, non è colpa di nessuno. Oh, è colpa mia. Se non fossi un uomo cieco e ignorante, ora non saremmo braccati. È inutile sprecare parole. Siamo nei guai. Dobbiamo metterci al riparo. Padrone, lasciate che vada da solo. È me che cercano. Zitto, lasciami pensare. Quando la luna si alzò, i congiurati nuotarono verso la riva del canale e si arrampicarono fuori. Prudentemente avanzarono lungo strade che erano deserte, se non per le guardie che annunciavano il loro passaggio con sufficiente anticipo da permettere ai fuggitivi di mettersi al riparo. Finalmente arrivarono al cancello dei mercanti della casa dei Chang. «Aprite, aprite!» sussurrò Talento Nobile con voce rauca. Non venne nessuno. Raccolse un ciotolo e lo gettò contro la parete. Aspettarono. Ne gettò un altro ancora. E infine una voce furibonda sibilò. «Vattene, chiamerò la guardia!» «Ciccia, aprimi! Sono il terzo figlio del Venerabile!» Il cancello si aprì e i due entrarono in fretta nel cortile dei servi. Cosa è successo e chi è quello? La donna indietreggiò. Fui! Fece una smorfia. State alla larga da me! Chiudi la porta, fedele serva, e va a letto, non dire a nessuno che ci hai visti. Vado subito, non temere, nessuno mi crederebbe. I due uomini scivolarono silenziosamente attraverso le ombre dei cortili illuminati dalla luna finché raggiunsero lo studio Ming. Nell'alcova il patriarca giaceva addormentato. Talento Nobile fece per svegliarlo, ma poi ritirò la mano senza sfiorare il copriletto di seta. Era insozzata dalle acque del canale. Fratello maggiore, svegliati! Svegliati! Sussurrò. Talento coraggioso aprì gli occhi. Cosa? Chi è? Sono tuo fratello! Ho bisogno di parlarti! Completamente sveglio, Talento coraggioso saltò giù dal letto. Ma che cosa fai qui? Puzzi di acqua marcia! Si allungò verso la lampada sul comodino e accese il lucignolo. Vieni con me. Passò accanto a loro e, dopo aver posato con cura la lampada sulla scrivania, si girò di scatto per affrontare il fratello. Chi è con te? Scusate, padrone, disse Spirito Risoluto, inchinandosi. Vi chiedo scusa, signore. Sono Spirito Risoluto, il figlio del contadino lì, quello col maiale, il maialino nero chiamato Prosciutto. Gli occhi di Talento coraggioso passavano da uno all'altro. Non capisco niente, spiegami, fratello, e in fretta. Mentre Talento Nobile parlava, il patriarca restava immobile. La sua faccia era inespressiva, i suoi occhi duri. Vuoi dire che eri cercato dai soldati? Indicò Spirito Risoluto, e l'hai portato dritto a casa. Hai perso tutte le tue facoltà. Meglio sarebbe stato che foste affogati entrambi. Ma non avevo scelta, sono responsabile io del ragazzo. Già, e non hai pensato alle tue responsabilità verso la famiglia, verso il clan, verso gli antenati? La sua voce vibrava di collera tenuta a freno. Sì, ragionevole, fratello. Talento Nobile fece per avvicinarglisi, ma Talento Coraggioso lo respinse con un gesto brusco. Vattene, mi offendi. Ma dove potremmo andare? Inoltre nessuno ci ha visti, nessuno. Talento Nobile guardò verso Spirito Risoluto che annuì goffamente. Che importanza ha, pazzi, che non siete altro! Cercano un contadino di statura superiore alla media, senza coda e un signore. Credi forse che non oseranno venire qua? Faranno irruzione nella casa di ogni gentiluomo e non impiegheranno molto a collegare il signore che si è presentato oggi allo Yamen con quello di ieri. Qualcuno bussò. I tre si girarono di scatto fissando la porta. Sono luna di primavera! Sussurrò lei entrando. Il suo sguardo passò dall'uno all'altro. Quel che ha detto Ciccia era vero. Talento Nobile allargò le braccia. Aia! Avrei dovuto saperlo. Nessun segreto è al sicuro qui, non in questa famiglia, nemmeno per una notte. Segreto? Quale segreto? Non vi sono più segreti. Talento coraggioso ora stava in piedi dietro la scrivania, stringendo lo schienale della sedia con tale forza che sembrava volesse spezzarlo. Come hai potuto portare a casa quel ragazzo? Quando lo troveranno qui avranno la prova che cercano. Te l'ho detto, non avevo scelta. Io sono responsabile nei suoi confronti. Il soldato si schiarì la gola, sentendo un sapore velenoso in bocca. Fratello mio, non puoi essere così spietato da sacrificare la vita di un uomo per evitare qualche pericolo immaginario o nel peggiore dei casi improbabile per la famiglia. Non vi fu risposta. Puoi davvero essere tanto duro, fratello mio? Lentamente Talento Coraggioso chiuse gli occhi e scosse la testa come se fosse in pena. Il pericolo non è improbabile, tu non sai, tu non puoi capire. Gli altri aspettavano. Sul tetto un gatto miagolò. Infine fu l'una di primavera a parlare. E ora che sappiano, zio anziano, lascia che racconti loro quel che è successo dopo che il giovane zio se n'è andato.